Motore partito, azione! Ciao, sono Emanuele e volevo ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 19 va in onda Movieland, il cinema alla radio. Curiosità da Hollywood, panoramica sui film in sala, approfondimenti ed interviste con i protagonisti della settima arte. Il tutto accompagnato dalle canzoni che sono state la colonna sonora di tanti film e della vostra vita. Movieland, se siete amanti del cinema, è un appuntamento al quale non potete assolutamente mancare. Ogni sabato sulla vostra radio dalle 18 alle 19. Vi aspetto! Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. And I just gotta tell you right now that I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, it must be love. Oh, something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh. E bentrovati per un'altra settimana insieme ad Emanuele sulla vostra web radio preferita. Questo è Movieland, naturalmente, il programma di approfondimento che vi parla di cinema e di tutto quello che ci gira intorno. Benissimo, come va? Tutto a posto per questo sabato 31 di agosto? 31 di agosto è l'ultimo giorno, domani è settembre, l'estate sta finendo, come dicevano i Righeira, che però non li mettiamo perché non è stata usata in nessun film questa canzone. Va bene, benissimo, noi siamo comunque su Movieland, resteremo fino alle 19 a farvi compagnia. Vi ricordo, se volete seguirci, la nostra pagina Facebook è Movieland Italia, oppure potete mandarci una mail per chiederci qualsiasi cosa relativo al cinema. La nostra mail, come al solito, è movieland.radio@gmail.com. quindi passiamo direttamente alla prossima canzone, perché gli ascoltatori lo meritano, questo bel pomeriggio estivo lo merita, e quindi andiamo avanti. Sinceramente non so se questa canzone di Roxette è stata mai usata per un film, però è talmente bella che oggi mi faceva voglia di ascoltarla. Quindi The Look, Roxette su Movieland insieme ad Emanuele fino alle 19. Buon ascolto. Never was a cooler, tasted like a raindrop. She's got the look, a heavenly bomb. Cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. Look. Fire in the eyes, naked to the tumor is a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer, she's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. Abbiamo fatto una piccola eccezione al nostro format, infatti questa canzone probabilmente magari è stata utilizzata in qualche film, perché i numeri ce li ha tutti. Sinceramente non lo so perché non ho avuto il tempo di andarla a cercare. Comunque questa è una bellissima canzone dei Roxette degli anni 80, The Look, bellissima bellissima, ci è venuta a trovare in questo caldo pomeriggio del 31 agosto 2013. Noi però abbiamo una piccola notizia da dare, infatti questo caldo agosto 2013 mette anche un po' in crisi le coppie. Infatti estate di matrimoni in crisi per il cinema dopo la separazione tra Monica Bellucci, Vincent Cassel e tra quella tra Michael Douglas e Zeta Jones, adesso è la volta di Clint Eastwood a 83 anni che si separa dalla sua moglie Dina Ruiz, ex giornalista televisiva di 48. Vabbè, io ho una vaga idea di chi ci guadagna da questa cosa. Comunque, a riportare la notizia è il US Weekly. L'attore regista statunitense era sposato con la Ruiz da 17 anni e la coppia ha anche una figlia di 16. Secondo quanto riporta il magazine americano, la separazione è stata consensuale. Eastwood e la 48enne giornalista vivevano ormai separati da giugno dell'anno scorso. I due hanno una figlia, appunto, che si chiama Morgan e ha 16 anni, quindi anche il nostro bel Clint Eastwood, il nostro bel tenebroso dei film di Sergio Leone, ha rotto la sua unione con questa bella ragazza, che sicuramente avrà però lei sì, magari altre possibilità. Benissimo, noi andiamo avanti perché ci vogliamo ascoltare questa bella canzone per innamorati, proprio per sfatare questo mito di quest'estate nefasta. Eccola qua, I Say a Little Prayer for You, Aretha Franklin. My hair now, and wondering what dress to wear now. sulle note di questa bellissima canzone adesso andiamo a fare un viaggio, è come se fossimo in volo, vediamo da lontano la laguna di Venezia, siamo atterrati, siamo a Lido e a Lido insieme a noi c'è Sara. Ciao a tutti! Buongiorno Sara, allora raccontaci che cosa sta succedendo là con questo gran macello di VIPs, film eccetera eccetera. Allora intanto oggi abbiamo una stupenda giornata di sole, cosa che non era assolutamente scontato visto la pioggia che abbiamo passato nelle ultime nottate. Diciamo che stasera comincia il filone americano, abbiamo due film americani molto importanti, Joe di David Gordon Green e Night Moves di Kelly Richard. Il primo, diciamo, è molto atteso perché vede un Nicolas Cage in versione eroe ambiguo da nodo alla gola, in un Bronx americano dove vedremo sparatorie, sangue, eccetera, eccetera. Beh, non vi anticipo troppo, ecco, diciamo. E nell'altro abbiamo una Richard capace, abile nella messa in scena, in una storia che però non convince completamente, però è da andare a vedere. Certamente. Quindi questa la le anticipazioni proprio su stasera. Questo per quanto riguarda il cinema americano, però andiamo un po' più sul casereccio. Sappiamo che lì è arrivata un'icona dell'Eros italiano. Ieri è arrivata un'icona dell'Eros italiano, infatti abbiamo avuto il film Istinto Brass alla Mostra del Cinema di Venezia, proiezione del film documentario su appunto il famosissimo regista di film erotico hard, Tito Brass. Sì, più erotico, c'era anche lui? Sì, si è fatto vedere, diciamo. Ah, bene, bene, bene, bene. Il film era molto atteso. Ironizza sulla figura di Tinto Brass, sui suoi film, è un omaggio al maestro sicuramente. Il documentario ripercorre la vita artistica, inclusi gli anni della formazione che lui ha avuto a Parigi alla Cinémathèque Française insieme a Rossellini e ad altri, quindi un periodo di formazione che lui ha fatto. Il protagonista, che quest'anno ha compiuto 80 anni, ha fortemente voluto questo documentario, collaborando alla sua realizzazione anche attraverso la ricerca di immagini inedite. La regia è stata affidata a Massimiliano Zanin, che è assistente da circa 10 anni e sceneggiatore di Brass. Molto molto interessante, e magari uscirà anche dopo la Mostra di Venezia, e quindi tutti lo potranno vedere, la storia di questo regista che a modo suo ha fatto anche lui la storia del cinema italiano. Svecchiamo un po' le cose, i giovani, raccontaci che cosa sta succedendo alla mostra con i giovani. Allora, grandissimo spazio ai giovani, soprattutto dall'altro giorno, dal 29, perché per i 10 giorni della Biennale del Cinema, dal 29 fino al 7, i teenager avranno un loro spazio. I teenager, quindi un'età compresa tra i 16 anni e i 25, visioneranno e analizzeranno insieme 10 film appositamente scelti dal direttore artistico della mostra. Questa unica e indimenticabile esperienza dà l'opportunità ai ragazzi di recarsi al Lido di Venezia, accompagnati dai responsabili dello staff del WW Film, e di partecipare ad incontri, convegni e appuntamenti sui temi della cinematografia. I titoli selezionati dal direttore della mostra sono questi: Via Castellana Bandiera di Emma Dante, che è un film che ha fatto molto parlare, Trax, Night Moves, Filomena e Sacro Gra, che è un film di Gianfranco Rosi. Le cose continueranno anche in altri punti e in altri posti del Veneto, perché il 6 settembre alle 17.30 presso lo spazio della Regione Veneto i ragazzi saranno presenti per il proprio giudizio finale e insindacabile, e ci sarà la premiazione ufficiale aggiudicando il premio Vittorio Veneto Film Festival al migliore film tra quelli in concorso. E per i giovani però Venezia riserva anche una lezione, tra virgolette, una lezione. Sì, abbiamo un film molto importante che esce stasera, che si chiama Young Europe, il film che ha realizzato la polizia sulla sicurezza stradale. Perché è molto importante questo film? È molto importante perché intanto è il primo film, il primo lungometraggio al mondo realizzato da una forza di polizia col coordinamento scientifico del Dipartimento di Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, mm-hmm, e la collaborazione della Fondazione ANIA per la sicurezza stradale, e dà una lezione forte, diciamo anche a livello psicologico molto forte per i ragazzi. È un film girato in 4 paesi europei: Italia, Francia, Irlanda e Slovenia, e racconta le storie di ragazzi accomunati dalla triste esperienza dell'incidente stradale che cambia per sempre le loro vite e quelle delle persone che gli stanno vicino. Certo, molto importante, un messaggio molto forte ma sicuramente positivo che la Mostra di Venezia vuol dare ai giovani, e comunque anche gli autori, appunto la polizia di Stato che ha realizzato questo film. A raccontarci tutto quello che succede alla Mostra di Venezia, a parte noi di Movieland chiaramente, ci sono anche Anna Praderio e Mediaset. Sì, abbiamo intanto un appuntamento importantissimo con Iris al Festival di Venezia ogni sera in seconda serata fino al 7 settembre. È appunto una finestra quotidiana sulla mostra che offre spazi e commenti di Tati Sanguinetti e altri incontri appunto di Anna Praderio con le star del giorno. Abbiamo fatto anche questa settimana il nostro compitino su Venezia, perché chiaramente essendo una trasmissione di cinema, approfondimento cinematografico, non possiamo esimerci, però fa un po' specie che quando cerchi notizie sul cinema apri qualsiasi sito e si parla della Mostra di Venezia. Ma la Mostra del Cinema di Venezia comunque è molto importante, quindi è giusto che per la settimana della Mostra del Cinema si parli della Mostra del Cinema. Certo, vabbè, poi discutere di questo con una veneziana appunto è meglio non farlo. Benissimo, io ti ringrazio Sara anche questa settimana di essere stata con noi con questi aggiornamenti dalla bella laguna, e ci sentiamo la settimana prossima. Grazie a te Emanuele, ciao, ciao a tutti. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get ascoltando Movieland, il cinema alla radio. Change world. Movieland. Il cinema alla radio. Darkness breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never. Qua la potenza vocale e la classe, la potenza, il tutto non è acqua. Questa è Leona Lewis con la bella canzone I See You, tratta dal film Avatar. Mi si sono accumulati un po' i disannunci. I Say a Little Pray for You di Aretha Franklin proveniva dal film Il matrimonio del mio migliore amico, l'abbiamo ascoltata due canzoni fa. Invece la canzone che abbiamo ascoltato prima di Leona Lewis e dopo l'intervento di Sara da Venezia sono stati gli Smash Mouth con All Star, dalla colonna sonora di Shrek, naturalmente, come tutti avrete riconosciuto. Io volevo dare adesso una notizia importante per tutti quegli aspiranti attori, ballerini, eccetera eccetera, che stanno seguendo e che seguono tutte le settimane Movieland. Infatti cosa sta succedendo? Christian De Sica sta preparando il suo spettacolo teatrale, il musical intitolato appunto Cinecittà, che debutterà in teatro dal febbraio del 2014 per la regia di Giampiero Solari e le coreografie di Franco Miseria. Praticamente è la storia dei mitici studios di Cinecittà, raccontata attraverso irresistibili racconti di vita vissuta, monologhi poetici, delle figure nascoste che rimangono sempre dietro le quinte, con gag, provini eccetera eccetera. Benissimo, i provini però non sono solamente di scena, ma c'è anche un casting che Christian De Sica in persona sta conducendo. Infatti sul palco ci sarà una compagnia completa completa, un corpo di ballo e un'orchestra di molti elementi. Come per la maggior parte dei musical, il casting è rivolto ad artisti con spiccate doti di recitazione, canto e ballo, varie fasce d'età, anche se in prevalenza tra i 20 ai 30 anni. Christian De Sica, come dicevo, oltre ad essere il protagonista e l'autore di questo spettacolo, seguirà con molta attenzione anche le varie fasi del casting, che inizierà intorno alla metà di settembre. I candidati possono inviare quindi il curriculum con la foto a questo indirizzo: desica.christian@gmail.com. Lo ripeto: desica.christian@gmail.com, per tutti quelli che in Italia sono veramente bravi e si meritano una opportunità. Noi andiamo avanti con Movieland. Verso le parole, eppure ce le avevo qua un attimo fa. Dovevo dire cose, cose che sai, che ti dovevo, che ti dovrei. Verso le parole, darsi che abbia perso solo le mie bugie. Sono nascoste bene, forse però semplicemente non era mia. Credi, credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo. Credi, credici un po' di più da. Ti bastasse solo quello che ho, io mi farò capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po', sei bella che fai male, sei bella che si balla solo come vuoi tu, non servono parole, so che lo sai, le mie parole non servono più. Credimi, credici un po', sei su Radio Freccia, guardati in faccia e dopo credi, credici un po' di più davvero. Sono loro che perdono me, lo so che dovrei dire cose che sai, che ti dovevo, che ti dovrei. Ho perso le parole, vorrei che mi bastasse solo quello che ho. Mi posso far capire anche da te, se ascolti bene, se ascolti un po'. Credi, credici un po', metti insieme un cuore, prova a sentire dopo. Credi, credici un po' di più davvero. Le poesie urbane di Luciano Ligabue, questa proveniva direttamente dal film che lui ha diretto qualche anno fa, appunto Radio Freccia, bellissima canzone questa appunto di Luciano Ligabue. Benissimo, noi proseguiamo perché adesso arriva il momento di Film Up. Movieland. Il cinema alla radio. Spazio in collaborazione con filmapp.com. Quello che hai sentito dire sui mostri, sugli incubi, sono tutte storie vere. Tu hai un dono e noi abbiamo bisogno di te. Io ho bisogno di te. C'è una mappa nella tua testa, Clary. Sei la chiave della nostra sopravvivenza. Sono io che ti sono sempre stato vicino, non lui. Voglio mostrarti chi sei veramente, chi eri destinata a essere. Tu non sai niente di me. Shadowhunters. Dal 28 agosto al cinema. È mai stato ipnotizzato prima d'ora? No, almeno a quanto ricordo. Chiudi gli occhi. Eccoti qua. In una decappottabile. In viaggio nella campagna francese, vicino a una bellissima ragazza. Mi piace la tua voce. E ad ogni chilometro che percorri, tutti i tuoi problemi. Allora, dov'è il quadro? Non me lo ricordo. Si allontanano nel tempo. E ora, al sicuro e rilassato, decidi di ricordare. 10. Quello che hai fatto del quadro. 9. Che quegli uomini non volevano farti del male. 7. Ora. Preferisci ricordare? 5. O preferisci 4. Dimenticare? 3. La tua vita dipende 2. Da questo. 1. Ti ha usato fin dall'inizio di questa storia, Simon. In trance, dal 29 agosto al cinema. Buongiorno. Vuoi salvare ognuno di noi? Entrando nel posto più protetto dell'universo. Esatto. Elysium, dal 29 agosto al cinema. Un'altra settimana insieme a Erika Melis di Filmup, il portale del cinema. Siamo insieme per scoprire quali sono le notizie, i gossip di questa settimana. In più c'è anche un po' Venezia che sta mettendo a suo quadro la redazione di Filmup. Comunque ringraziamo Erika perché è sempre disponibilissima. Ciao, buon pomeriggio. Ciao a te, buon pomeriggio. Allora, raccontaci, c'è stata una notizia che ha sconvolto un po' tutti i social questa settimana, che è quella appunto di Monica Bellucci. Raccontaci tu. Sì, sì, perché è una coppia che sembrava perfetta, almeno dall'esterno, inossidabile. Stavano insieme da 14 anni, che come sai benissimo in questo mondo è tantissimo. Certo. Ossia quella di Monica Bellucci e Vincent Cassel si separano. Dopo professioni di amore da una parte e dall'altra, ricette per far funzionare insomma il matrimonio anche a distanza e cose simili, invece anche loro divorzieranno. Ma sembra esserci comunque lo zampino di qualcuno, no? Questa separazione avviene secondo il gossip per qualche motivo. Sì, sarebbe colpa di un imprenditore a zero, un uomo ricchissimo di nome Telman Ismailov, perdonate la pronuncia, che l'attrice italiana avrebbe conosciuto nel 2009 durante l'inaugurazione di un hotel di lusso voluto proprio dallo stesso imprenditore. E pare, almeno così i gossip dicono, che da allora i due abbiano una relazione. Hai capito, poi si sa che le vite degli attori sono sempre difficili, uno a girare in una parte del mondo, l'altro nell'altra parte del mondo, e quando il gatto non c'è, i topi poi alla fine ballano, insomma. Va bene. Tra l'altro proprio in questo momento lei era in Serbia a girare il nuovo film di Emir Kusturica, mentre lui era in Brasile con le figlie a coltivare la sua nuova passione, quanto dice, il surf. Per certo, cui, insomma, certo. Diciamo che Monica era abbastanza vicina all'Azerbaigian, diciamo così. Sì. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Allora andiamo avanti, perché Vincent Cassel è protagonista anche delle uscite di questa settimana, giusto? Esatto, sì, sarà protagonista del film drammatico di Danny Boyle, In Trance, dove recita al fianco di James McAvoy e di Rosario Dawson. È un thriller un po' particolare perché praticamente il protagonista è un assistente di una casa d'aste che a tempo perso collabora con una banda di ladri per trafugare una preziosa opera d'arte. In seguito all'incidente, però, l'uomo ha una strana amnesia a cui i suoi complici non credono e lo affidano nelle mani esperte di una ipnotizzatrice che cerca di leggere nei suoi pensieri. Film interessante e particolare. Interessante. Poi quando la psicologa è Rosario Dawson, uno magari gli viene una botta di amnesia così. Vabbè. Giusto. Poi tra le altre uscite segnaliamo Elysium, con anche qui un cast molto interessante che vede protagonisti Matt Damon e Jodie Foster. È ambientato nel futuro, dove la Terra ormai è in rovina ed è sovrappopolata, tanto è vero che le persone ricche si rifugiano in una stazione spaziale chiamata proprio Elysium, dove cercano di non far entrare la popolazione. I poveracci, benissimo. Esatto, i poveracci. E poi questa settimana esce anche Shadowhunters, Città di Ossa, che è tratto dall'omonimo romanzo di Cassandra Clare e che probabilmente sostituirà Twilight nel cuore dei fan, perché è comunque una saga fantasy che potrebbe, insomma, interessare i giovanissimi. E l'ultimo film che segnaliamo questa settimana è una produzione italiana firmata da Bruno Oliviero, La variabile umana. Con Silvio Orlando, mi sembra, no? Esatto, Silvio Orlando e Giuseppe Battiston. Orlando praticamente qui interpreta un ispettore che si chiama Monaco, che avrà a che fare con dei delitti molto particolari che lo costringeranno a rivedere un po' le sue posizioni, la sua vita e soprattutto il rapporto con la figlia. Benissimo, benissimo, interessante. Quindi anche questa è una settimana da cinema da andare a vedere sicuramente, con film e uscite molto interessanti, e finalmente anche il botteghino che ha ripreso fiato. Sì, finalmente, soprattutto grazie ai film animati. Infatti nelle primissime posizioni, primo e secondo, ci sono Monsters University e Turbo, e hanno finalmente anche gli incassi sono sollevati, raggiungendo i 2 milioni di euro per il primo e 1 milione di euro per il secondo. Anche il terzo comunque non se la passa male, perché si aggira intorno al milione di euro, ed è l'horror L'Evocazione. Comunque tutte e tre novità. Benissimo, finalmente la gente ha ricominciato ad andare al cinema. Naturalmente noi da Movieland esortiamo tutti ad andarci tutti i fine settimana, dopo aver ascoltato il programma ovviamente, per sapere, per essere orientati su che cosa andare a vedere. Noi ringraziamo ancora una settimana Erika Melis del portale filmup.com, con il quale collaboriamo, e ti diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie a voi, a presto. Un saluto, ciao. Ciao. Movieland, il cinema alla radio. Here we are, born to be kings. We're the princes of the universe. Here we belong, fighting to survive in a war with the darkest power. People say you've had your day. I'm a man that will go far, fly the moon. Chi è che non si ricorda le teste che volavano in quei bellissimi film degli anni Ottanta, Highlander con Christopher Lambert, Sean Connery, bellissimi veramente quei film, e questi, e questa faceva parte della propria colonna sonora di Highlander, erano i Queen naturalmente con Princess of the Universe. E benissimo, allora la nuova rubrica che abbiamo rinnovato la scorsa settimana è quella dei di cosa ci sarà in televisione, dei film una volta visti al cinema, e adesso abbiamo la possibilità di rivederli comodamente seduti sul divano. Questa sera segnaliamo su Canale 5 alle 21:10 Viaggi di nozze, invece sulle reti Sky per chi ha il decoder, su Sky Cinema Hits alle 21:10 ci sarà Mi presenti tuoi, e su Sky Cinema 1 alle 23 ci sarà Colpi di fulmine, quindi Sky e Mediaset, film per tutti questa sera per chi non volesse andare al cinema, ma come sempre noi vi ricordiamo che è una buona pratica invece andarci. Ebbene, yes, seguiamo con Robin Williams, Misunderstood, dal diario di Bridget Jones. Stiamo andando verso la fine del programma, prima c'è ancora una sorpresa, intanto ascoltatevi questa bella canzone. Trying to be misunderstood, but it doesn't do me any good. Love the way they smiled at me, held that face for eternity. Now let them all fly off. It all comes down, and you will not be found. When it's over, it's all over. Even if I make a sound, by the beautiful and good in this city. None of it was planned. Take me by the hand, just don't try and understand. Trying to be misunderstood, just a product of my childhood. And still I find myself outside. You can't say I haven't tried. Perhaps I tried too hard. I won't apologize or justify your lies. Come find me, tell them to me. Look me in the eye. In sala da giovedì c'è La variabile umana, un film italiano con Silvio Orlando e tantissimi altri attori italiani molto bravi, tra cui Battistone eccetera, un film di Bruno Oliviero che parla di Milano. Noi Bruno Oliviero l'abbiamo in collegamento. Ciao Bruno. Ciao Emanuele. Ciao, allora questo è il tuo primo, è il tuo primo lungometraggio dopo una serie di documentari. Hai iniziato a lavorare nel 2001 con il primo documentario importante a Napoli, ne sono seguiti ancora altri documentari ambientati a Napoli, poi nel 2003 sei arrivato a Milano e lì hai iniziato anche a Milano a conoscere la città, a fare documentari documentari sulla città. Il primo è stato sull'Andrangheta, le infiltrazioni, poi la vittoria di Pisapia alle elezioni. Insomma, il tuo è un background da documentarista. Raccontaci un po' la tua storia brevemente. Beh, no, me l'ha riassunto abbastanza bene. La cosa molto interessante nel fare il documentarista è che si è a contatto con la realtà abbastanza direttamente. Continuamente. Certo. E un'altra cosa che io penso sia molto interessante, che oggi poi mi ritrovo nel primo film di finzione, è che hai delle possibilità di sperimentare sul linguaggio cinematografico che a volte il cinema di finzione non ti consente. Benissimo, parliamo un po' di questo film, La variabile umana. Innanzitutto una domanda che sorge spontanea: la differenza che c'è tra girare un documentario e girare un film, qual è lo scoglio più grande con il quale ti sei dovuto confrontare? Scoglio non lo so, nel senso che cambia completamente, che a volte non mi sono nemmeno chiesto se c'era una differenza, perché mi sembrava di fare un'altra cosa proprio. C'è un po' la differenza tra nuotare e guidare un motoscafo. Sei sempre nell'acqua, però diciamo, le abilità che devi mettere in campo sono diverse. Detto questo, sempre per quella cosa che ci dicevamo prima, quando ho pensato di fare una finzione non ho pensato di lavorare come nel documentario. Nel documentario più o meno lavori in 3-4 persone in un ambito molto protetto culturalmente, fai sempre un'operazione di politica culturale quando fai un documentario, mentre invece quando ho iniziato a pensare a una finzione immediatamente ho pensato che volevo fare un film che non rimanesse marginale rispetto al mercato, diciamo così, per cui ho subito pensato ad attori del calibro di Silvio Orlando, Beppe, certo, Battistone e Sandra Ceccarelli, e per cui mi sono messo io solo nei guai, nel senso che questo faceva diventare immediatamente il film che ho fatto un film con un impianto abbastanza pesante, certo. Cioè il passaggio è stato traumatico e i primi giorni pensavo che fosse solo una differenza di scala, invece è proprio una differenza di profondissima, ecco. di tutto. Ci sono un altro lavoro, ci sono i reparti, devi tenere le fila con tutti, sì, sono 50 persone che vogliono ognuno andare in una direzione diversa, tu devi tenere le fila di tutto e guardare anche con attenzione al lavoro che fanno. In fin dei conti, anche perché il mio film è così, è un lavoro sussurrato, intimista, certo. Comunque dentro la tempesta che si produce, perché sono 50 persone che quando dici stop iniziano un boato. Visto che il mio film è un film molto sui silenzi, sull'intimità di questo personaggio, su un personaggio che all'inizio del film, quello di Silvio Orlando, del commissario, sì, Monaco, è molto dimesso, e poi pian piano per le vicende che attraversa la tensione monta e lui scoppia, ma certo. Per creare questa cosa qui diciamo si faceva una delle grandi fatiche, è stata questa qui. Comunque appunto il cast è un cast d'eccezione: c'è Silvio Orlando, c'è Giuseppe Battistone, Sandra Ceccarelli. Come è stato lavorare con questi attori? Riuscivano a rendere i personaggi come tu li volevi, come te li eri immaginati, realisti? Perché venendo da un documentarista uno si aspetta il realismo. Ma almeno questo è quello che diceva Silvio durante la lavorazione, che lui mi dava dei consigli che io non accettavo e che si stupiva del fatto che ero così deciso rispetto alle cose che volevo. Questo credo che venga comunque da 10 anni di esperienza nel documentario, nel senso che una volta che comunque hai fatto dei film che di una certa durata, hai un po' di esperienza su che cosa è, come creare un'atmosfera globale. Sì. Mi era abbastanza semplice ed è stato anche molto semplice comunicarlo agli attori, con i quali attori abbiamo fatto un lavoro proprio sul loro modo di recitare, come dice Silvio, non lo dico io, dice lui, per la prima volta nella sua carriera, quando ha visto il film, si è visto diverso da se stesso, diverso da lui come persona. E questo a me è sembrato un ottimo risultato. È un complimento, un grosso complimento, sì. Raccontaci brevemente un po' la trama, chiaramente senza svelare cose importanti, perché sennò... Cioè, questa questione dello svelare per me è veramente molto ambigua, nel senso che lo presentiamo come un giallo. È un giallo perché c'è di mezzo un omicidio e un'indagine. Mm-hmm. Sempre per utilizzare in maniera indegna dei precedenti. Diceva Hitchcock che la questione non è portare le persone a scoprire chi ha fatto cosa, ma è vedere come si comportano le persone una volta che sanno cosa è successo. Questo, diciamo, per quanto riguarda la questione del giallo e dello svelare o non svelare chi è il colpevole. Ovviamente non lo farò, perché, certo. Però allora il film è un film su un uomo che è Silvio Orlando, che è l'ispettore Monaco, che vive in una città come Milano ed è ritirato da qualche tempo. Il suo lavoro si svolge in ufficio, non vuol far altro che passare delle carte, e anche la sua vita, scopriamo, si svolge in ufficio, perché da quando è morta la moglie si è creato questo micromondo in questo suo ufficio in commissariato. Una notte viene ammazzato un uomo molto potente, un costruttore con interessi politici, che conosce il prefetto e che viene segnalato al questore di Milano una particolare attenzione su questo caso, e ci si rivolge a Monaco perché negli anni passati era un grandissimo investigatore e soprattutto una persona molto discreta. Questo lo rimette in moto in una città che ormai non conosce più, certo. E scopre un mondo cambiato, cioè un mondo in cui, appunto, come dicevamo prima, lo sdoganamento tra virgolette prostituzione minorile, o meglio, cioè dell'offrire il proprio corpo da parte di alcune ragazzine per entrare in un mondo dorato, certo, è diventato qualcosa di molto normale. E mentre accade questo, la figlia ha fatto una grande cazzata, ha rubato la sua pistola e se n'è andata con dei suoi compagni per il suo compleanno in campagna a sparare, e l'hanno beccata. Lui non vuole chiudere un occhio perché tutti i suoi colleghi, certo, e il suo capo gli dice: ma chiudiamo un occhio, una ragazzata, e questo, diciamo, avrà delle conseguenze sulla sua vita. Bellissimo, bellissima. La trama è già avvincente così, e sicuramente al cinema lo sarà molto di più, quindi io esorto tutti gli ascoltatori di Movieland a andare a vedere questo bel film italiano. Ci sono tante uscite di film hollywoodiani, ma ci hanno un po' scassato sinceramente. Penso che comunque, a prescindere da tutto, se posso dire l'ultima cosa, sì, è importante sostenere il nostro cinema comunque e sempre, a tutti i livelli, io penso, certo, anche le commedie, e secondo me di più i film che tentano di raccontare il mondo che ci sta intorno, altrimenti rimarremmo come una famiglia senza album delle fotografie, e questo sarebbe, certo, veramente, certo, terribile. Bellissima immagine. Quindi La variabile umana è in sala da giovedì in 88 copie in tutta Italia. Io appunto chiedo, discorso, stasera c'è. Stasera c'è, certo, certo. Stasera c'è, e c'è per tutto il fine settimana e probabilmente anche fino alla settimana prossima. Quindi andate a vedere La variabile umana. Noi ringraziamo Bruno Oliviero che è stato con noi e ci ha raccontato un po' del film. Grazie Emanuele. Un saluto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao e grazie, perché siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati alla fine di Movieland anche per questa settimana. Io ringrazio tutti gli ascoltatori che sono stati insieme a noi e vi saluto. Vi rimando alla prossima settimana sulla vostra web radio preferita. Il sabato dalle 18 alle 19 c'è Movieland, il vostro programma di approfondimento cinematografico. Benissimo, un saluto, ciao ciao ciao, ci sentiamo la prossima settimana. Motore partito, azione! Ciao, sono Emanuele e volevo ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 19 va in onda Movieland, il cinema alla radio. Curiosità da Hollywood, panoramica sui film in sala, approfondimenti ed interviste con i protagonisti della settima arte. Il tutto accompagnato dalle canzoni che sono state la colonna sonora di tanti film e della vostra vita. Movieland, se siete amanti del cinema, è un appuntamento al quale non potete assolutamente mancare. Ogni sabato sulla vostra radio dalle 18 alle 19. Vi aspetto!